Ed eccoci di nuovo in diretta. Dicevo che ora trasmetteremo un'intervista che abbiamo fatto mercoledì scorso al rappresentante del coordinamento contro la centrale Enel di Palo Vieco in Guatemala, con appunto Arnoldo Curincinch Cumez delle comunità di San Juan Cozzal, le 28 comunità indigene che formano questo municipio situato nel Quiché, un dipartimento del nord ovest del Guatemala, dipartimento dove l'Enel appunto vuole costruire due dighe. Si tratta dei progetti Palo Vieco 1 e Palo Vieco 2, già le sta costruendo, è arrivato nel 2008 e suscitando l'opposizione delle comunità prevalentemente indigene che abitano in quei territori. In questo caso si tratta direttamente di Enel Green Power, mentre nei casi della Colombia e del Cile, della Patagonia cilena, di cui abbiamo già parlato più volte in trasmissione, si trattava di Endesa, l'impresa energetica spagnola acquisita nel 2009 dall'Enel per il 98%, quindi praticamente una società totalmente dell'Enel. Si tratta di questi progetti dell'Enel in Guatemala, si tratta di numerose centrali nei prossimi anni e quelle che appunto verranno costruite nella comunità di San Juan Cozzal sono le due più grandi del paese, per trasformare, come ci dirà appunto Arnoldo nell'intervista che ora manderemo in onda, il Guatemala in un paese esportatore di energia. Infatti non si tratta di dighe che servono a rifornire di energia elettrica le comunità locali, anzi ci racconta Arnoldo come queste comunità siano prive di energia elettrica e il progetto considera come anni di intervento quelli dal 2012 e il 2025 non prevede affatto di fornire di energia elettrica a queste comunità, ma si tratta di opere che servono solo ad arricchire la multinazionale Enel e a garantire energia per progetti, immaginiamo, minerari o industriali che riguardano altri interessi rispetto a quelli delle comunità locali. Quindi iniziamo subito con l'intervista e chiediamo ad Arnoldo dove sta venendo costruita la diga e chi danneggia. Dove viene costruita la represa? Che ubicazione geografica tiene e che popolazione va a affectar? Bueno, la represa se va a construir en una de las comunidades, en una de las 28 comunidades que conforma el municipio de San Juan Cozzal. San Juan Cozzal es uno de los tres municipios que conforman la región Ixil en Guatemala. Quindi la diga verrà costruita in una delle 28 comunità che formano il municipio di San Juan Cozzal. San Juan Cozzal è dei raggruppamenti indigeni che formano l'etnia Ixil in Guatemala. La región Ixil lo conforman Nevaj, San Juan Cozzal y Chajul. La regione Ixil è formata da Nevaj, San Juan Cozzal y Quaxul, que son de los lugares más afectados durante la guerra civil que finalizó apenas hace 15 años. Che sono tra i luoghi più colpiti dalla guerra civile che è durata fino a 15 anni fa. Es un lugar bastante bastante rico en referencia al agua. Es de los pocos lugares en Guatemala donde todavía existe una gran cantidad de ríos y nacimientos de agua, que podría decirse agua pura, sin ningún tipo de contaminación, por la enorme proporción de los bosques que rodean el área. È una delle zone più ricche di risorse idriche del Guatemala e risorse idriche che sono anche straordinariamente prive di un livello alto di inquinamento, questo anche per le foreste che circondano e interessano quest'area. Y es precisamente esta abundancia de la biodiversidad que existe ahí que ha llamado la atención de las multinacionales sobre ed è proprio per questa grande biodiversità che la regione ha richiamato l'attenzione delle multinazionali. Todo la Enel que llegó en el 2008, año 2008 llegó a la región para construir las dos más grandes hidroeléctricas en Guatemala para producir energía eléctrica que no va a quedar ninguna cantidad de esta energía eléctrica, no va a quedar nada para las comunidades y sin embargo estas son comunidades que no cuentan con energía eléctrica. Soprattutto dell'Enel che è arrivata nel 2008 per costruire queste due dighe che non serviranno alle comunità locali, che sono tutte comunità che sono prive di energia elettrica. Che impatto tiene in estas represas sobre las poblaciones que viven allí? Quindi che impatto hanno le due mega dighe sulle persone che vivono lì? Bueno, desde que llegó la Enel a instalarse en esta región Ixil, empezó a crear un tipo de conflictividad en la región porque precisamente el plan de desarrollo municipal que fue elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala y da quando l'Enel è arrivato in questa regione si è sviluppato un alto livello di conflittività, questo perché il piano di sviluppo regionale elaborato da un segretariato della Presidenza della Repubblica, la Municipalità di San Juan Cotzal, giustamente este plan de desarrollo es a partir del año 2011 para 2025. Y justamente en este plan se habla de que estas represas no va a traer ningún beneficio para las comunidades y precisamente además de que no va a traer ningún beneficio, está trayendo desde que se empezó a construir la represa una contaminación en uno de los ríos, el río Cotzal y su afluente río Copón. Questo perché nel piano di sviluppo 2011-2025 si mostra che non ci sarà alcun beneficio per le comunità di San Juan Cotzal e perché da quando è stata iniziata a costruire questa diga è iniziato l'inquinamento con detriti della costruzione dei fiumi che passano San Juan Cotzal, donde actualmente la gente ya no puede tomar el agua directamente de los nacimientos porque vienen con algunos residuos químicos. Dove le persone non possono più prendere l'acqua perché arriva inquinata da residui chimici. Viene con un sabor diferente y un color diferente el agua y tampoco la gente ya puede ir a bañarse al río como es costumbre en estas comunidades. E arriva con un sapore, un odore differente e nemmeno le persone che abitano in queste comunità possono andarsi a lavare al fiume come è costume in queste comunità dove non c'è acqua corrente. Esta es una de las primeras efectos que está causando la construcción de la hidroeléctrica. pero también ha revivido una conflictividad social en la región, porque la empresa empezó a dividir a las comunidades. Quindi questo è uno dei primi effetti dell'intervento dell'impresa nella regione, ma c'è stata una conflittualità molto alta anche perché l'impresa ha iniziato a dividere le comunità. Quando algunas comunidades empezaron a oponer a la construcción en compañía del embajador italiano en Guatemala, en persona junto con representantes altos dirigentes de la Enel para Latinoamérica. Quindi appena alcune comunità hanno iniziato ad opporsi a questi progetti, l'Enel con l'aiuto dell'ambasciatore italiano in Guatemala e attraverso i suoi massimi rappresentanti, i massimi rappresentanti dell'impresa in Guatemala, e si han presentado a las comunidades a amenazar a la población para que hace. Si sono presentati nelle comunità per minacciare la popolazione para que acepte la construcción de la hidroeléctrica, per costringerli ad accettare la costruzione delle centrali idroelettriche. Esto aunado a que estos la mayoría de estos ríos que abastecen de agua a la población. Questo assieme al fatto che la maggior parte di questi fiumi forniscono di acqua alle popolazioni. También aparte de esta contaminación, tampoco se ha hablado, bueno, Enel ha dicho que va a construir las hidroeléctricas en pequeñas cantidades. Sin embargo, en un documento de la Enel habla de que van a hacer muchos kilómetros de construcción que va a abarcar la represa. Mentre Enel ha detto che gli edifici della centrale riguarderanno solo poche quantità di terreno, invece in un documento che entra più nello specifico della costruzione della diga si mostra come sono vari chilometri di territorio ad essere colpiti dalla costruzione di edifici funzionali alla centrale idroelettrica. Pero también la construcción de una carretera en que lo que se construyó sin ningún respeto a la naturaleza natural. Anche la costruzione di una strada costruita senza alcun rispetto della natura. Esa que para las poblaciones indígenas es muy importante porque justamente atraviesa un lugar sagrado. Natura che per le comunità indigene è molto importante perché attraversa un luogo sacro. Para esta construcción y también que durante los primeros días de construcción, antes de que se comenzara la resistencia de las poblaciones, varios de los camiones que pasaban en el lugar arrollaron y mataron a dos jóvenes estudiantes de ahí. Anche perché su questa strada, nei giorni precedenti alla costruzione dei primi edifici della diga, passarono vari camion che finirono con andavano ad altissima velocità con uccidere due giovani che si battevano contro la costruzione della centrale. De la población de San Juan Cotzal, y cuando las personas las familias de estos jóvenes que fueron matados, uno de ellos es un deportista. Quando le famiglie di questi due giovani uccisi, investiti dai camion dell'impresa costruttrice, murió en el lugar y quedó en una forma que da espantosa, ¿verdad? Prácticamente lo partió a la mitad y todos los intestinos hacia afuera. Uno di questi morì in una forma spaventosa con il camion che lo divise in due, lasciando uscire tutti gli intestini dalla parte superiore del corpo. Y cuando los familiares, los padres de estos jóvenes quisieron hacer la denuncia, quando i genitori di questo giovane volettero fare la denuncia penal, Enel sempre aprovechando la pobreza extrema in cui vivono estas famiglias. Enel, approfittandosi della povertà estrema in cui vivono queste famiglie, llegó a las comunidades a entregarle 50.000 euros a cada familia para no hacer una causa judicial. Arrivò nelle comunità dandogli ad ogni famiglia di questi due giovani uccisi l'equivalente di 50.000 euro per convincerli a non fare la denuncia. Entonces todas estas situaciones fueron las que fueron creando la conflictividad social. Tutte queste azioni furono quelle che portarono a creare questa conflittualità sociale oggi esistente. A una violazione dei diritti dei popoli indigeni garantito nella Costituzione politica della Repubblica di Guatemala. Assieme alla violazione dei diritti indigeni riconosciuti dalla Costituzione politica del Guatemala. Y otras leyes internacionales, por ejemplo el convenio 169 de la OIT. Assieme ad altre leggi internazionali come la Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Però in la legislazione guatemalteca, los pueblos indígenas, la Costituzione claramente dice che los pueblos indígenas gozan de una especial protección y que cualquier situación, cualquier proyecto que vaya a afectar sus intereses o dentro de su territorio, los pueblos indígenas que viven en el área deben de ser consultados e informados previamente. Situación que no sucedió en este caso y por eso fue que comenzó la resistencia de las comunidades ichiles. La stessa Costituzione del Guatemala riconosce una particolare protezione ai popoli indigeni e il diritto di essere consultati per qualsiasi opera che riguarda i loro territori, cosa che non si è verificata in questo caso, come in molti altri in America Latina, e che ha provocato l'inizio della resistenza delle comunità ichiles. Quindi in che è consistita la resistenza delle popolazioni locali? Hanno organizzato manifestazioni o blocchi stradali o tipi di protesta di altro genere? In che consistì la resistenza che desarrollarono las comunidades del lugar? Che organizzarono? Marchas, bloques de rutas? Bueno, en primer lugar, las poblaciones cuando se enteraron de la construcción de la hidroeléctrica, se enteraron que se iba a producir energía eléctrica en sus comunidades, en su territorio, primero se reunieron en la cultura maya en general y en la cultura maya ichil, todas las decisiones se toman en consenso. Y es de esta forma como fueron convocadas las 28 comunidades en asamblea. Se realizaron 28 asambleas donde participó la gran mayoría de la población ichil. La población ichil lo conforman 150.000 personas más, bueno, según datos oficiales son 150.000 personas los ichiles en Guatemala. Appena le comunità indigene sono venute a conoscenza dell'esistenza di questo progetto di costruzione di centrali idroelettriche, si sono riunite come di consueto nella tradizione dei popoli Maya o dei popoli Shil o di quelli Maya in generale. Infatti nelle consuetudini nelle tradizioni di questi popoli indigeni le decisioni vengono prese per consenso, quindi con il consenso di tutti i componenti della comunità, e sono iniziate le assemblee delle 28 comunità che conformano questo gruppo indigeno, quindi 28 assemblee che hanno affrontato il problema della costruzione di queste centrali idroelettriche. Ellos expresa il pueblo Xile in Guatemala è, secondo le statistiche, è composto da 150.000 persone. Su deseo de buscar primeramente un diálogo con la Enel, y el objetivo del diálogo es pedirles a ellos que se construya la hidroeléctrica, pero respetando respetando a la naturaleza y utilizando las formas, una forma que ellos proponen de respetar y utilizar esos recursos. Pero inizialmente la richiesta delle comunità indigene è stata quella di dialogare con l'Enel, accettando la costruzione della centrale, ma pretendendo il rispetto della natura e che il progetto portasse elettricità a queste comunità. También una de sus demandas principales, como la mayoría de estas comunidades no tienen energía eléctrica, es de acercarse a la Enel y pedirle que el 20% de la energía eléctrica que se construye ahí quede para las comunidades, porque las comunidades que viven a 50, 60 metros de la hidroeléctrica no tienen energía eléctrica. Y entonces, desde un comienzo, la Enel se ha opuesto a este tipo de diálogo y negociación. L'Enel si è opposta da subito a ogni tipo di dialogo e negoziato. De las comunidades, y fue de esta forma que primero se convocó a una reunión con el alcalde municipal de San Juan Cotzal, en donde fueron a plantear estas sus demandas al alcalde. Sin embargo, el alcalde cerró las puertas completamente, porque obviamente se sabe que recibió dinero de parte de Enel para autorizar esta hidroeléctrica. L'Enel si è riunita con il sindaco della comunità di San Juan Cotzal, sindaco che ha chiuso le porte della riunione, dell'incontro a tutti gli altri componenti della comunità, visto che si sa che ha ricevuto dei soldi dall'Enel per acconsentire alla costruzione di questa centrale idroelettrica. Después, las comunidades, cuando vieron que era imposible entrar a un diálogo, empezaron a organizar primero marchas, y después, como no había una forma de que fueran escuchados, entonces optaron por bloquear la carretera, pero no para las comunidades que viven ahí, sino que bloquear la carretera para los camiones y el transporte pesado que efectuaba el trabajo de la Enel. Es decir, que podían pasar todos, menos los camiones de la Enel. Appena la comunità di Cile si è resa conto che non c'era nessun tipo di dialogo con l'Enel, hanno iniziato prima le manifestazioni di protesta e poi l'interruzione delle strade che attraversavano la comunità, interruzione che non riguardava i componenti della comunità ma solo i camion dell'impresa costruttrice della centrale, ai quali non veniva consentito di passare. Y sin embargo, al aver effettuato esta forma di resistenza pacifica, en él empezó a dividir más a las comunidades, porque llegó a las comunidades más numerosas, más grandes, a ofrecerles la construcción de dos escuelas. Subito dopo Enel ha tentato di dividere le comunità, entrando in quelle più numerose, offrendo la costruzione di due scuole. Una construcción, por ejemplo, llegó a Santa Belina, donde y San Felipe Chenla, perdón. Y en San Felipe Chenla, que es donde comenzaron a hacer esta construcción, sin embargo, la construcción quedó suspendida por mucho tiempo, y el lugar donde fue, donde antes existía una mínima construcción en donde recibían clases los estudiantes, fue destruida. Sin embargo, el trabajo quedó paralizado por mucho tiempo y los estudiantes tuvieron que recibir sus clases a la intemperie. a San Felice Cenlà, che era uno dei luoghi più interessati dalla costruzione, più danneggiati dalla costruzione della centrale idroelettrica. Distrussero la scuola, che già l'edificio precario dove venivano date lezioni, che già esisteva nella comunità, per costruire una nuova scuola, ma tuttavia i lavori della scuola rimasero paralizzati per tanto tempo, costringendo gli scolari della comunità a prendere lezioni all'aperto. Qual è stata la repressione del movimento di opposizione alla costruzione della diga da parte dello Stato? E che livello di repressione desatò l'Stato per difendere la costruzione della represa? Bueno, pocos días después de que las comunidades construyeran la pues bloquearan el acceso a los camiones de la Enel, directamente el presidente de la República de Guatemala emitió un comunicado en cadena de radio y televisión nacional dirigida a la población Ixchil. Subito dopo l'interruzione delle strade da parte delle comunità, il Presidente della Repubblica Colom ha mandato in televisione e per radio un comunicato dirigito alla popolazione Ixchil accusandolos di terroristas, di incitadores, di agitadores y rebeldes y un montón de delitos que habían creado. Sin embargo, también se está accusato diretto alla comunità Ixchil, accusandoli di essere terroristi, incitatori, ribelli e violatori della legalità dello Stato. Que la embajada italiana en Guatemala y Enel, específicamente el embajador italiano en Guatemala, el señor Mainardo Benardelli y el señor Alan Gormser. Gli stessi rappresentanti dell'Enel in Guatemala per l'America Latina, Alan Gorms, e l'ambasciatore dell'Italia in Guatemala, Mainardo Berardinelli, che è il rappresentante della Enel in America Latina. Requirieron al Estado, solicitaron al Estado de mandar a reprimir a las poblaciones, a la población Ixchil que estaba resistiendo. Hanno chiesto allo Stato di andare a reprimere la popolazione Ixchil che stava resistendo. Bueno, hubieron varios tipos de represión, pero la más impactante quizás es la que se ejecutó el 18 de marzo del 2011. Ci sono stati vari tipi di repressione, ma quella più forte, con le conseguenze più gravi, è stata quella lanciata il 18 marzo 2011. Donde llegaron 3 helicópteros, 1000 policías, 1000 soldados. Quando arrivarono 3 elicotteri, 1000 poliziotti e 1000 soldati, esercito a trattare e intentar capturar a los dirigentes indígenas, a las autoridades indígenas de ahí de la comunità, a provare ad arrestare i rappresentanti e i dirigenti indigeni della comunità. A requerimiento de la Enel y de la embajada italiana. Su richiesta dell'Enel e dell'ambasciata italiana. Esta situación creó una gran angustia, un gran miedo, sobre todo a las mujeres que viven en la región, porque la mayoría de las mujeres que sobreviven en la comunidad de San Felipe Chenlá son viudas de la guerra, y precisamente hace 20 años llegaba la misma cantidad de soldados, la misma cantidad de policías, con los helicópteros siempre a bombardearlas, a quemarles las casas y a asesinar a los hombres y a las mujeres, muchas de ellas violadas. questa situazione causò paura soprattutto alle donne, visto che molte di loro erano reduci del periodo della guerra civile. Solo 20 anni fa la stessa quantità di militari arrivavano nelle comunità per uccidere gli uomini e violentare le donne sessualmente. Entonces las mujeres volvieron a revivir ese miedo que tenían hace 20 años y varias de ellas se desmayaron y les dio ataques de pánico y fueron trasladadas al hospital. A causa della paura che erano tornate a vivere queste donne, molte di loro sono svenute, hanno avuto attacchi di panico e sono state trasferite all'ospedale. Sin embargo, habían varios compañeros de ahí en la comunidad quienes empezaron a transmitir a través de las redes sociales lo que estaba pasando en este, es decir, al momento, a transmitir en vivo lo que estaba pasando ahí a través del internet. Y de esta forma, como mi organización, yo pertenezco a una organización que se llama Consejo de Juventudes Maya Garífuna y Xinca. Ma in quel momento si è iniziato a mandare in internet le immagini di quello che stava succedendo. Anche lui, che appartiene al coordinamento delle comunità Maya Garífuna y Xinca, empezamos a enviar estas imágenes en directo a pedir la solidaridad de todos los otros embajadores de los demás países acreditados en Guatemala. Hanno mandato queste immagini in diretta chiedendo l'intervento degli ambasciatori degli altri paesi presenti in Guatemala. Desde comunicación y al mundo entero, porque las redes sociales están abiertas a todo el mundo, con videos, con fotografías de lo que estaba pasando en ese momento. Y fue de esta forma como varios embajadores, por ejemplo el embajador de Noruega y el embajador de Estados Unidos, llamaron telefónicamente al presidente guatemalteco para señalarle que la irrupción en San Felipe Chenlá era una clara violación a los acuerdos de paz firmados hace 15 años. E gli ambasciatori di Norvegia e Stati Uniti hanno chiamato il presidente guatemalteco per segnalargli che l'irruzione in San Felipe Chenlá era una palese violazione degli accordi di pace del 96. Entonces fue de esta forma como se pudo lograr detener la represión y no se llegó a más, aparte del miedo que llevó y el desmayo de las mujeres de ahí de Cotzal. È solo per questo che si è riusciti a non far andare oltre la repressione. Ma ci sono stati altri settori sociali del paese che si sono associati a queste comunità nella lotta contro le dighe? Hubo sectores, otros sectores del Guatemala que solidarizaron con la protesta en contra de la represa en el país. Bueno, en Guatemala la mayoría de la población lo constituimos la población maya. En Guatemala somos 14 millones de habitantes. De los 14 millones, 9 millones somos de origen maya. La maggior parte della popolazione del Guatemala è composta da maya. Su 14 milioni di abitanti, 9 milioni sono di origine maya. Y la mayoría de esta situación, la mayoría de población se solidarizó de diferentes formas con la lucha que estaba llevando a cabo los pueblos ixiles en este caso. Pero hay que resaltar en esta parte que el Estado guatemalteco, sus instituciones y la sociedad guatemalteca en sí es un Estado y sociedad sumamente racista. La maggior parte della popolazione del Guatemala ha solidarizzato con la lotta delle comunità ixil, ma va ricordato che lo Stato, le istituzioni e la società civile guatemalteca sono uno Stato, una società sommamente razzisti. Escludente e discriminatoria. Escludenti e discriminatori. Però hay una particularidad que hay que señalar, que en la mayoría de países donde existe racismo y discriminación, es la minoría la discriminada y la excluida. Sin embargo, en Guatemala es la mayoría la que es discriminada y excluida. Y la particolarità da risaltare è che negli altri stati razzisti è una minoranza che è oggetto di esclusione e di discriminazione, mentre in Guatemala è la maggioranza indigena ad essere discriminata ed esclusa. De esta forma, como la mayoría de medios de comunicación le dieron muy poca cobertura, algunos y otros no le dieron ninguna cobertura a este incidente, que inclusive llevó después de la propuesta, después de la protesta y llamada de atención de varios embajadores que acompañaron el proceso de paz, llevó a destituir al ministro de la Defensa en Guatemala por haber enviado al ejército a irrumpir a esta comunidad a requerimiento de Enel y de la embajada italiana. Nonostante questa protesta e la repressione dello Stato abbiano portato alla destituzione del presidente della difesa, che aveva ordinato su richiesta dell'Enel e dell'ambasciata italiana l'intervento a San Felice Cenlà, i mezzi di comunicazione hanno dato poco risalto anche a questo avvenimento, oltre che alla lotta in generale contro le dighe dell'Enel. Ma visto che le dighe stanno venendo già costruite a partire dal 2009, quali sono gli obiettivi della lotta di chi si oppone a quest'opera? E ora che la represa già si sta costruendo, quali sono gli obiettivi delle comunità indigene che si oppongono a questa opera? Después de esta represión que se llevó a cabo este día, igual siguieron otro tipo de intimidación en las comunidades. Sin embargo, las comunidades estaban dispuestas a seguir y no ceder, y fue de esta forma como nuevamente Enel y la embajada italiana llegaron a las comunidades acompañados por el ejército siempre para buscar el inicio de un diálogo. Claro che si è aperto. Dopo tutti questi avvenimenti, i rappresentanti dell'Enel sono andati nelle comunità per cercare l'inizio di un dialogo. Durò l'inizio del dialogo, sin embargo, desde un principio las comunidades se dieron cuenta y de que el proceso de diálogo iniciado por Enel con las comunidades era una forma de ganar tiempo, le llamamos nosotros, una forma de entretener a las comunidades, como porque parte del acuerdo es que mientras se buscaba el diálogo, buscar una respuesta, una solución favorable para las dos partes, se tenía que dejar el paso a la maquinaria y que el trabajo debe continuar mientras se construía la hidroeléctrica. Ma questo dialogo era solo un modo per guadagnare tempo, visto che uno dei suoi presupposti era quello di lasciar passare i macchinari che servivano alla costruzione della centrale idroelettrica, mentre si continuava a fare le trattative che da subito per gli indigeni sono apparse solo una maniera, appunto, per guadagnare tempo e costruire la diga. Sin embargo, se dialogó en forma infructuosa por 6 meses consecutivos, ya que Enel nunca accedió a ninguna de las demandas de las comunidades. Si è dialogato per 6 mesi in maniera infruttuosa, visto che l'Enel non ha accettato nemmeno una delle richieste delle comunità. Y ahora, precisamente, hace un mes que prácticamente Enel rompe el diálogo a través de los medios de comunicación, diciendo que ellos no van a ceder ninguna de las solicitudes y demandas de las comunidades y que ellos... Un mese fa Enel ha rotto le trattative dicendo che loro non avrebbero accettato nessuna delle richieste, delle sollecitudini delle comunità. Respetan. únicamente a las autoridades oficiales, digámosle así. E che loro rispettano unicamente le autorità istituzionali. Desconociendo también ellos que en Guatemala los pueblos indígenas tienen su propia forma de organización, su propia visión de desarrollo y su propia forma de convivir amigablemente con la naturaleza y específica. Disconoscendo anche loro che in Guatemala i popoli indigeni hanno la propria maniera di vivere, di essere in rapporto con la natura e il proprio modo di sviluppo. Mentre la regione Ishil, dove convivono con la naturaleza por más de 2000 años. Entonces, después de haberse roto el diálogo, ahora en estos momentos las comunidades están llevando a cabo nuevamente un proceso de consulta para decidir cómo van a proceder, si nuevamente vuelven a la resistencia o, bueno, eso lo sabremos cuando se termine el proceso de consulta. E ora, dopo aver interrotto il dialogo, le comunità Ichil sono nuovamente in un processo di consulta per capire quali dovranno essere le prossime azioni per cercare di far sentire la propria voce. Ma hai parlato del tentativo di Enel di dividere le comunità costruendo scuole. Ci sono stati anche episodi di corruzione o di distribuzione di denaro da parte di Enel per convincere la popolazione? Usted habló del intento de Enel de dividir las comunidades construyendo escuelas, sí. Enel también hubo episodios de corrupción de Enel, de distribución de dinero para convencer la población para crear debilidades a la lucha o no. Bueno, parte de la división es que a varias comunidades les entregó a cada familia 16 hojas de láminas de zinc. Parte della divisione è causata dal fatto che a ciascuna famiglia delle comunità sono state consegnate 16 fogli di lamina di zinco. En Guatemala la mayoría de la población pobre utiliza como techo láminas de zinc. In Guatemala la maggioranza della popolazione povera utilizza come tetto della propria abitazione lamine di zinco. Enel entregò esta una gran cantidad de láminas de zinc a manera de comprar la voluntad de las personas. L'Enel ha consegnato una grande quantità di lamine di zinco come modo per comprare la volontà delle persone. Las personas recibieron, la mayoría recibió las hojas de láminas de zinc, pero le dijeron a Enel, está bien, nos lo trajiste, es voluntad tuya, las aceptamos, déjalas, las vamos a aceptar, pero no vamos a aceptar que se lleve a cabo la hidroeléctrica, y si quieres, llévate tus láminas. Pero igual recibieron las láminas. La maggior parte delle persone ha ricevuto le foglie di zinco, i fogli di zinco, ma hanno detto all'Enel che non avrebbero accettato la costruzione della centrale idroelettrica, che se volevano si potevano portare via le foglie di lamina di zinco, ma che non avrebbero mai accettato la costruzione delle dighe. De personas. Pero otra de las cuestiones que ya que se tocó el tema de corrupción es que, por ejemplo, la Enel está publicitando en Guatemala que ha invertido por 3 años en un proyecto de educación, según ellos, que se llama Juguemos a la Energía. Un altro modo dell'Enel per ottenere consenso è quello che riguarda un progetto che l'Enel ha chiamato, ha pubblicizzato in giro per il mondo come giochiamo all'energia. Entonces las comunidades indígenas miran, bueno, nunca vieron nada específico sobre este programa que según Enel está ejecutando allá y publicita. le comunità non hanno mai visto nulla che riguardasse questo programma che secondo l'Enel sta venendo realizzato lì. Inclusive in su pagina web, attraverso de su ONG Nel Cuore, che pubblicizza anche attraverso la sua pagina web, attraverso la sua ONG Nel Cuore, che ellos han invertido 37 millones de euros en Guatemala. Sin embargo, las comunidades nunca han visto nada de esta cantidad que se haya invertido en la comunidad, porque creo que 37 millones de euros invertido en una comunidad, creo que de un momento a otro saldría de pobre, considerando los costos bajos que son allá, a comparación del costo, si por decirte que un e che in Guatemala, in quelle comunità, l'Enel dice di aver investito 37 milioni di euro, una cifra che avrebbe consentito a quelle popolazioni di uscire dalla povertà, considerando il basso costo della vita in quei luoghi. Euro è equivalente a 10 quetzales de allá, es decir, una gran cantidad de dinero, pero lo que más lo que las comunidades miran como inclusive como una burla y un desprecio hacia ellos es que cómo es posible que reporte un proyecto que cuesta una enorme cantidad y que se llame Juguemos a la Energía cuando las comunidades no tienen energía y cuando lo que necesitan no es jugar a la energía sino que energía de verdad. Una cosa che le comunità indigeni considerano come una vera e propria offesa, come una presa in giro, è che questo programma si chiama Giochiamo all'Energia, quando queste comunità non necessitano di giocare all'energia, ma necessitano proprio dell'energia, visto che non arriva l'elettricità in queste comunità e non arriverà nemmeno dopo la costruzione delle dighe dell'Enel.